Se ci incontriamo domani, ma è vero che ci sei? Sposto massi da queste mura, esco a guardare, potrei incrociare il tuo sguardo, essere soli e vedere il sole. Dove volgi i tuoi occhi mentre parli di te? Se vuoi mi puoi guardare. Na na.